Oh, questa sì che è bella! Oh cara, quando tu mi vedrai! Fermati! Dove vai? Vado, io vado, signor sì, dove mi piace! Temerario balordo, tu non sai che io sono il tuo padrone! Ah, voi siete il nipote della zia! Amico, perdonate, amor qui mi condusse, già cara Rosina! Questa forse con lei? Questa è con lei? La bella pescatrice, son io, lo sposo fortunato. Me ne consolo assai. Ben obbligato. Olà, villano indegno, parti, fuggiva via, che se ti vedo girar più qui intorno, fo balzarti il cervello. Schiavo, buongiorno. Mai Rosina, è vero, e quel sembiante mi indusa di dirà, ma poi sposata non mi sembra più bella. Signor, la baronessa, veda lei che sta qui. Sciocco villano, già che sei qui venuto per voglia di morir. Aiuto, aiuto. La baronessa qui, comprendo adesso ciò che tenta di seguir, ma giuro al cielo che impegno sciocco è il mio. Ama costui Rosina, la spon, che dico, e è pure mia moglie, e che son pazzo, poi boh, villotto a stringerò a ricusarla, e quando ostinato si mostri allora in vano, la morte fuggirà da questa mano. E viva allegramente, presto presto sarà sposa, e già sento che il cuore batte batte per la gioia vicina. Sposa, mio caro bene, vieni presto e consola. Ecco che viene, questa è la sposa tua. Vedi quanto è leggiadra, e la sospira l'acquisto del tuo cuore. Tu di Rosina, devi ricosar la mano. Come? Perché? Se quella mamma è d'ora di venuto son io per donare la mano a Lino il mio. Amico, io qui m'ascondo, s'altrimenti farrai con grande ardore verrà la sposa a trapassarti il cuore. E antico quel proverbio, la donna è sempre donna, e per la donna si perde qualche volta. Sei qui, Masino, ascolta! Qui viene la baronessa con Rosina, tu devi in ogni conto obbligar tua sorella a sposare villotto. Oh, questo è bella, io direi fermi grazia. Basta, non più parole! Io qui mi cielo, se non farai, divini ti prometto, con questo ferro a trapassarti il petto. Sì, signore. E sono io che comando, accostati villotto, porcio costei la mano. Tu mi coita, che caso? Per me son persuaso, e ha ragione, e voglio. Senta, facciam così. Son pronto, eccomi qui. E questa è la pistola. Non, signore. Ma che si torna mio, quasi io. Sbrigati. Piano, un momento ancora. Non più indugi, villotto. Ti sei forse pentito? Pentito? O questo mai? Vedi, che io sparo.